hai colto tutto quello che ti serve per vivere. La libertà è povertà dell'anima. Solo il piccolo Francesco chiude gli occhi ed in silenzio fa di Gesù i gesti nobili, senza neanche pensare, ha preso tutto in parola, seguito Dio. Semplicità, serenità dell'anima. Semplicemente andrai e ogni strada percorrerai. Piccole gioie che per nulla rinnegherai. Semplicemente la gente oggi vedo che ha paura di vivere, seguendo te forse però s'anima un po'. Piedi nudi in questo tempo vuol dire niente è più bello, se la terra santa non avrò il più povero oggi è l'invisibile. Forse Francesco, forse Gesù, che si spengono qua giù. Semplicemente dove vive la verità. Semplicemente andrai e ogni strada percorrerai. Piccole gioie che per nulla rinnegherai. Semplicemente passaggio nel sogno dove vive la verità. La verità, la verità, l'infinitamente piccolo.